E ritorniamo per la seconda parte di 451 frammenti sonori in compagnia di Max Macchia, ma poi in realtà insomma dietro di me ci sono e anche a fianco di me anche altre persone. Non sono mai solo, 451 non è mai solo, mettiamola così. Siamo tornati con un suono spaziale che proviene direttamente da Inner Zone Orchestra. Prima dicevamo appunto 70 con Funkadelic, 80 con Ramsey Lee, Deadline Material, e anni 90 con Inner Zone Orchestra, un progetto dei tanti che prevedeva un incrocio anche piuttosto importante tra vecchio tra virgolette jazz detroitiano di natura più cosmicheggiante e invece la natura tecnoide, high tech, seppur sempre spiritata da quel così quel fuoco afrocentrico, potremmo dire, dentro Carl Craig. Ho dei progetti sicuramente più interessanti da parte dell'autore di Detroit, che si faceva appunto aiutare da Francisco Mora, che appunto decisamente dentro le maglie del jazz, insomma, dei 60-70, e anche Craig Taborn. Probabilmente Craig non è riuscito a bissare, seppur si è avvicinato in zona orchestra per quanto riguarda appunto questo strano connubio, strano poi tra virgolette, visto che questa sera appunto stiamo parlando e facendo ascoltare quel mondo immaginario fantastico dentro la musica nera, quindi i riferimenti insomma tra culture dentro le musicalità nere, e sono sempre state intrecciate anche in progettualità che sembrerebbero molto distanti l'una dell'altra, se pensiamo insomma alla techno di Detroit e al jazz. Poi in realtà insomma la faccenda si incrocia e come Craig provò con Detroit Experiment un'altra volta un paesaggio lunare alla Inner Zone Orchestra, riuscendoci in parte sicuramente per il momento, insomma, visto che poi Craig sembra non fermarsi, seppur insomma decisamente rallentato la produzione. Comunque con questo Inner Zone Orchestra sicuramente riusciva appunto a incrociare allunaggi jazzistici con motori tecnoidi detroitiani, e quindi far volare insomma questa fantasia nera dentro appunto questo strano black hole, meraviglioso buco nero appunto delle musiche nere reinventate e decisamente fantastiche appunto sia di Craig che di buona parte poi di personaggi che da Detroit provenivano, come ad esempio anche un collaboratore dello stesso Craig, Stinson, con Urban Tribe, creava un immaginario sonoro veramente allucinante, tuttora lo crea, visto che Urban Tribe come progetto non più insieme a Craig, a Moody Man, altro visionario che stasera non sarebbe affatto sfigurato dentro 451 frammenti sonori. Comunque dentro appunto Urban Tribe ora c'è soprattutto la figura di Stinson, che andiamo a prendere da un remix anch'esso della fine degli anni 90, quando questo connubio tra africanità, trip hop e techno creava veramente un mondo future jazzistico, potremmo dire, come anche una storica compilation che tra l'altro continua a uscire. E dentro appunto questo immaginario profondamente nero ci andiamo a prendere questo viaggio incredibile di Urban Tribe con la sua East World. Thank you. Stinson, ma Shakir, vabbè, Anthony Shakir, altro personaggio, Stinson, sempre della saga detroitiana, techno detroitiana, con questo appunto marchio non di fabbrica, o se di fabbrica si può parlare sicuramente di fabbrica lunare, probabilmente come appunto questo raggio lunare da dove proviene appunto Infiniti, il maestro, probabilmente il precursore, poi insomma il fulcro originario di tutta la faccenda techno è sicuramente Joan Atkins, che già con Cybotron creava quel passaggio epocale tra elettro, elettrofunk e appunto techno, quello che poi sarà chiamata tale dopo qualche anno, soprattutto con una compilation dove tra l'altro partecipa proprio Anthony Shakir, uscita intorno alla seconda metà degli anni 80, 88 se non sbaglio, e New Decade of Dance Detroit Techno, appunto, e dove appunto veniva coniato il termine, dove veniva poi insomma illustrata quella che sarà una delle più grandi materie sonore della fine degli anni 80, dei 90, fino a forse arrivare anche ai nostri giorni, seppur la fantasia accesa di quegli anni è sicuramente insomma andata un po' appannandosi, ma d'altronde insomma un po' anche il discorso che facevamo nella scorsa trasmissione sulla Kraut e la Cosmice, ovviamente non si può pretendere che rimangano accese queste lampadine per sempre, ci sono delle trasformazioni musicali, come d'altronde appunto questa sera stiamo proprio cercando insomma di creare questo filo rosso tra fantasia black musicale, partendo appunto da prima come insomma, personaggio assolutamente di riferimento Sarra, ma poi mettendo di fatto George Clinton con i suoi funkadelic, e arrivando appunto a Detroit, che comunque riprende quella mirabile stagione del funk più allucinato, quella funk che sicuramente è di matrice clintoniana, ma potremmo anche citare Sly Stone, potremmo citare certe esperienze funkeggianti, cosmicheggianti di Hendrix, Ohio Pride Ayers, eccetera, insomma varie faccende soprattutto legate alla fancadelia, come appunto poi lo stesso George Clinton cognò, che è arrivata appunto attraverso l'elettro, poi innescata materialmente dentro la macchina techno, e poi con tutte le varie diramazioni, come a dire, a ritrovare anche un senso poi di un percorso, un senso di un percorso che sicuramente non può essere fatto senza tornare insomma alle radici jazzistiche di un suono che poi appunto è diventato tecnologico. E dentro uno dei più allucinati e visionari personaggi, con appunto già la citazione di Infiniti che abbiamo ascoltato poc'anzi e che abbiamo ancora in sottofondo, di John Atkins, il vero e proprio insomma padre della techno, sicuramente insomma figli incredibilmente creativi e che purtroppo insomma per la dipartita di uno dei due, Drexia, non c'è più. Tra l'altro in Urban Tribe c'era anche un secondo Drexia, che poi è ancora Stingway, quello ancora in vita. E con Drexia si va dentro quel mondo fantacquatico, marziano, sì, acque probabilmente di un pianeta che vogliamo insomma forse avvicinarlo a Marte, ma potremmo insomma anche parlare di qualcosa di fuori dal sistema solare con Drexia, visto che la fantasia veramente qua arriva a grandi livelli, non soltanto quella immaginaria, quella iconica di Drexia, che è anche piuttosto fantasiosa e divertente appunto nella maniera più esplosiva si possa immaginare, ma anche appunto a livello sonoro, di invenzione e di reinvenzione appunto di quella matrice funk elettronica e jazzistica che dentro Neptune Lear, compreso anche il loro primissimo disco The Quest, raggiunge veramente vertici incredibili. Da Infiniti quindi a Neptune, continuando appunto questo volo cosmico dentro questi immaginari fantastici dentro la black music. We'll be right back. Thank you. con Journey da parte di Kay End, che altro non sarebbe che Kelly End, donna detroitiana, una tra l'altro delle anche più funkeggianti e più anche pestate a livello ritmico esperienze della techno di Detroit. Quella di Kelly End è un funky in esplosione che a volte diventa veramente una sorta di monolite anche quasi vicino appunto a una motorizzazione completa, a raggiungere quasi una saturazione funk. Molto interessante il suo percorso, seppur insomma misconosciuto rispetto insomma agli autori magari anche menzionati prima da Craig Joan Atkins, ma appunto con una visione veramente piuttosto complessa e anche con un'articolazione eccezionale anche da parte di Kelly End per quanto riguarda appunto la natura black e soprattutto funk, questo motore appunto che percorre anche in maniera assai svelta e tecnologica appunto i suoi viaggi. Infatti di viaggi a una journey come il titolo del disco, questa sera li stiamo facendo attraverso appunto questi immaginari fantastici neri, degli immaginari appunto che sono sempre mobili, non hanno sì o delle caratteristiche comuni appunto individuabili in quella anche mitizzazione della cultura africana, magari anche proprio quella ancestrale, un po' ricordare quella splendida copertina che per tanti anni, e continueremo probabilmente anche a citarla, di Herbie Hancock Sextant, questa tribù africana su un pianeta lontano nel cosmo che balla, danza quasi in una forma rituale, una delle copertine probabilmente più simboliche per quanto riguarda un viaggio tra elettronica, suoni primitivi, appunto memorie perse e ricercate appunto dentro un'ancestralità, dentro una forma di ricostruzione fantastica, se vogliamo, appunto di queste culture e anche di queste musicalità che si cibano appunto di tutti questi strani alimenti appunto presi chissà da quale pianeta, seppur appunto partendo forse dal pianeta più anticamente abitato, che è appunto quello dell'Africa, pianeta continente, chiaramente in questo caso forse l'astronave appunto africana immaginata dai vari personaggi che questa sera abbiamo messo tutti uniti in questo discorso appunto di viaggio, parte proprio appunto dall'antico continente africano. E se con K-End, The Xia Infinity, Joan Atkins, Urban Tribe e in Zone Orchestra siamo andati dentro appunto questa navicella fantastica di Detroit, torniamo, perché per molti versi stiamo facendo New York versus Detroit, torniamo appunto a New York dove c'era Death Comet Crew nei anni 80, forse magari anche vicino a Ramz Lee, che tra l'altro metteremo immediatamente dopo con un nuovo lavoro. Death come Crew, come Ramz Lee, partono appunto dai profondi anni 80 con un elettro piuttosto visionaria per poi arrivare appunto ai nostri giorni, o perlomeno avvicinarsi insomma agli anni zero, così ricostruendo appunto questa saga spaziale tra strada appunto e escapismi cosmici e voglia appunto di rivoluzionare, se non reinventare in maniera limitata, ma appunto addirittura proprio capovolgere e appunto andare in moto di rivoluzione per quanto riguarda sia le musiche ma anche le attitudini più in generale, da Death Comet Crew, che tra l'altro appunto lavorano proprio con da voce da istericamente futurista di Ramz Lee, che poi andiamo appunto a prenderlo dal suo Biconical. Invece questo passaggio di Death Comet Crew, tanto insomma per creare contraddizioni nelle contraddizioni, viene dalla bella compilation Anti-New York. Torniamo a New York, ma in maniera antitetica. Boh, vediamo quanto. Rock a figure, I can rock. about to lose my establishment. Money spent, bridges burned, got no job. Not in my nature to rob. So please God, help me through this. Don't let my landlord do this. I got nowhere to go, no friends, no family. Sister won't answer the bell. Daddy fed up with me. Josephine says it's over. Screw my apology. Of all the things in life I thought could never be, would be me on the streets with my property. Can't let this happen. Let me call mommy dearest. Of the few who were close to me, she was the nearest. Hello, ma, how you doing? The landlord said by tomorrow I must be moving, so I was wondering. No, don't even ask. Mama got bills to pay, car notes, tax. Ma, lend me something before the monster shows up. No, not a dime this time, Charlie, grow up. Why would you gather your home like it's a toss up? Mama got the words to say before she hangs up. Phantom being on the streets tomorrow, I can't begin to think of whom or where I can borrow. I can't picture me as a resident of poverty's hero. Can you imagine my sorrow when day breaks tomorrow? Don't know where to go, don't know who to see. I'm in the company of wretched misery. I brought this on myself, this pain and agony. The poverty, that's not my destiny. Sera, whatever will be. Shut off the lights and turned in my key. Bag in tow like some worn, torn refugee. Out in the streets, two ticks before reveille. Challenged economically, searching out for sympathy. Tired, homeless, dead broke financially. Mumbling angrily the facts of my anguish. For those who listen, please heed, remember this. Pay your rent, pay your rent, pay your rent. We sacrifice worlds, oxen. Through thousands of years of religious democracy, we still garble the towers of Babel, the Parthenon. Is it? Is it not? Is it now this planet? I find this interesting. Sport the demigods plants and the animals give in plague. Humans, I have awaited the meeting of this Gutenberg and his Bible. Do you know of this Bible? Kept in the Vatican, 1440 rooms of squared knowledge in math and maths. It was made in a most forbidden era. Calendar switched by name. The true end of our Gothic period. Profane. It has caused many. Walls with ears and sights and fears. Isn't it looking around you at this court wall trains your predecessor, warriors of the letter gods, titans, that started these alphabets, written time, all dead, all dispersed on the winds, verbal thieves and commanders of war's languages, and the chariots and chests that they have handed down to you. Thank you. With the clues and glues of design and function, monoliths and paintings, cars and years and numbers of hands, most surgical in the drawing, from tunnels of grand master surgeons, of time versus time, we gave you the book, the tree of laws, your broken spine. We know that you are searching for the summation of the and its idea. Look at the chassis up on the walls. Find the answer or die. And die with your human pride. Behold, Titans. I have searched before the time of the Parathon. We sent soldiers of mediums before Zeus. Since after that. Chassis finished, true to myself. I am Sigma One. Beh, strano mondo quello di Ramz Lee, appunto, come dicevamo a inizio trasmissione, più o meno all'inizio, quando l'abbiamo unito a Funkadelic per quel percorso che abbiamo iniziato appunto attraverso il funk visionario, folle, appunto, dei Funkadelic, unendo appunto una sua affiliazione, sicuramente quella di Ramz Lee degli anni Ottanta, tra elettro e futurismi vari. Ramz Lee che è abbastanza discontinuo nella produzione, ma quando produce fa sempre, insomma, il colpo, anche il colpo grosso. Tornava dopo un po' di tempo con Biconicals, disco dove veramente i nervosismi stradali vengono trasformati in fantasie anche piuttosto così deliranti, volutamente tali, surrealiste, portate appunto a un eccesso, sempre questo strano connubio, appunto, avant, come dicevamo prima, tra avanguardie europee dei primi del Novecento e forme, appunto, che sembrerebbero lontane anni luce, poi in realtà vengono fuse in maniera assolutamente geniale da questo artista, che sono appunto queste dell'elettro, dell'hip hop, di un funk virato in maniera futuristicamente elettronica, dentro appunto mondi allucinati e decisamente nuovi nel vero senso della parola, musiche che si cibano sempre di grande genialità nel vero senso della parola, che danno poi anche paternità, nuove costruzioni sonore, tant'è che forse volendo fare insomma una sorta di genealogia della visionarità del Fanta Black, da Funkadelic a Ramz Lee, potremmo anche arrivare a Antipop Consortium, una delle realtà più importanti degli anni zero e più violentemente futuristica dentro appunto a una New York veramente immaginata come astronave, come possibilità data a musiche, a suoni che veramente vanno al di fuori appunto della nostra terra, per prendere appunto viaggi anch'essi siderali, però sempre appunto in maniera paradossale, meravigliosamente paradossale, sempre comunque con quel contatto, quella luce accesa, quel link con la strada, con quel suono anche realistico appunto che proviene dal melting pot e anche dalle grandi contraddizioni sviluppatesi in una città come New York, forse le contraddizioni proprio di quella città, come dire, arricchiscono poi musiche e le fanno proprio nascere. Non è un caso insomma che tante innovazioni non soltanto nella black music ma nella musica in generale provengano proprio da quella città, tanto moderna, tanto ipermoderna, tanto primitiva in questa sua giungla d'asfalto, citando insomma il grande film di John Huston. E ci andiamo a prendere Antipop Consortium proprio dal loro tragico epilogo, e poi non era un tragico epilogo, è anche qua un gioco surreale alla Ramz Lee, una follia, perché era il primo disco di Antipop Consortium, appunto iniziava anch'essa la saga fantastica con la, tra l'altro, 75 ARC, perdonatemi se lo dico soltanto in italiano, che era collegata a altri visionari, seppur forse ancora più ancorati, sì, alla terra, che erano Wu-Tang Clan, però come dire, una sorta di un figlio impazzito appunto attraverso anche le lezioni di Ramz Lee, quello appunto del progetto Antipop Consortium, che ci andiamo appunto a riascoltare, a ripescare appunto dal loro inizio, che era appunto del 2000, iniziava proprio l'anno zero con questo tragico epilogo, che in realtà non era affatto, anzi era un meraviglioso inizio. 10 days of old man beans. Parallel prose mixing the author of concepts on a platform of uneven surfaces that shun expectations. As the pipe cleaner frame mutters through clenched teeth, innumerable ribbons in a wave of a conductor's wand. Coming out of his mouth, float unending upon spiral revolves, chasing quick air and oratorical jousting matches. While you're left covered in a film of perspiration, not foolish enough to fear my presence. Such is the rhythm of destiny you couldn't escape if you were in the witness protection program. Each gesture as quick as lightning, while the mechanisms of wings roar and sputter. Devastating tissue thick testosterone pencil pickers, which can only fit through the keyholes. The doors squeak thicken in orgasm. So you move on to kitchen utensils, playing yourself like golf in a graveyard. Possessed with the personality of a zit, while I'll always remain as malleable as any joystick maneuver. Quotations of my intonations are never turbulent, as clouds skid across skies, or if my hour of discharge was a star running up to catch shadows. The silent holds of your hiss lacks luster, it's spoiled to a hopeless extent. Juvenile like kids with crayons, which scribble the illusion of progress upon a color filter of its validity, which topples without a kickstand. The silence is violent as laughter brings the noise of its collapse. The circumstances unveiled in folds of time as the clock winds down, trickling towards the next hour, awaiting to face the continuum of twilight, neither night nor day. Very far, yet very near on the opposite side of the coin, imprinted upon the memory like a wound. MCs lay victim to the luxury of factories like an invalid of no arms or legs, least dreaming of movement. But such is the price for applause and obtaining the slightest approval, as a sarcophagus stands in memory of the dead amid geometrical ruins, and spectators gather around and mourn. And mourn. And mourn. And mourn. Ultra bassi di Antipop Consortium, che univano il mondo dell'hip hop con quello del dub, con quello dell'elettronica, anche forse influenzata dalla techno di Detroit, mondo parajazzistico inventato e fantasticato attraverso produzioni musicali che comunque hanno sempre segnato, insomma, il corso di un nuovo modo di intendere la musica nera per Antipop Consortium, e appunto poi chi ha preso spunto da loro, e sono tanti, insomma, soprattutto un certo hip hop poi anche colorato di bianco, tipo Claude Dead e vari personaggi, Prefuse 73, che hanno circolato dentro questo nuove forme di pop anche piuttosto interessante, con appunto una matrice piuttosto astratta, in questo senso forse colorata di bianco o scolorata, forse si potrebbe dire, se mi fate passare, insomma, la sgrammaticatura. E con Antipop Consortium andiamo quasi a chiudere forse il più grande progetto visionario della black music degli ultimi anni. Nel Fanta Black non poteva mancare Dalek, amato da queste parti a 451, e come citavamo tra l'altro anche nella scorsa trasmissione del Kraut, probabilmente non la cito per la seconda volta questa sera così a caso, perché probabilmente ci sarà la seconda parte che vi promettevamo appunto domenica scorsa. Teneteci più o meno conto per domenica prossima, però insomma faremo di tutto insomma per rimettere in piedi un'altra astronave, in effetti, tra cosmi minori degli anni 70 e appunto filiazioni nei nostri giorni. E dentro ci potrebbe stare anche Dale, perché disco con Faust, ma anche molte cose fatte insomma anche senza lo storico gruppo Cosmice tedesco, riportano un po' anche a quella appunto visione cosmicheggiante segnata insomma dai padri tedeschi, padri sonori di queste attitudini, che dentro Dalek vivono tanto di strada come appunto di escapismi anche estremi, una sorta di visione sì, distopica di un mondo fantascientifico che nella distopia però non trova disperazione, ma trova appunto una sorta di escapismo che non finisce lì, ma appunto dà anche possibilità a questa fuga in avanti, quindi anche di reinvenzione, come questa sera insomma abbiamo sottolineato più di una volta, forse le parole chiave per quanto riguarda Fanta Black appunto di questa sera a 451 frammenti sonori. Andiamo a prendere Dalek, progetto Dalek, che poi in realtà prevede tre soggetti, insomma, vedere le foto per niente rassicuranti, la musica neanche per niente rassicurante, per questo che ci piace tanto. E andiamo a prendere dal senza titolo di qualche tempo fa, l'ultimo uscito per Dalek, Antitred, appunto, da parte dell'Attitude, etichetta insomma, probabilmente legata al loro filo diretto, visto che hanno stampato tranne il disco con i Faust, che hanno stampato appunto per la Staub Gold, che è legata appunto direttamente ai tedeschi, hanno sempre stampato con Ipecac, che etichetta insomma spazia dai Melvins appunto a Dalek, a Phantomas e a quant'altro, insomma si possa considerare destrutturato dentro generi decisamente strutturati, volutamente forse anche strutturati, visto la loro tradizione sia nel rock che nelle pop appunto per quanto riguarda Dalek. Ci andiamo ad ascoltare appunto in conclusione di questa nottata fantascientifica, fantastica, legata alla musica nera, appunto Fanta Black, come abbiamo voluto insomma sintetizzare. Ringrazio chi ci ha ascoltato, chi ci ascolterà sul blog 451frammentisonori.noblogs.org. Di conseguenza insomma ringrazio anche Lorenzo Albano, che cura tutta la faccenda bloghistica. Ringrazio il mio compagno di viaggio Eliseo Scarpa, ringrazio chi mi ha fatto compagnia in questo viaggio semiastrale o astrale del tutto, appunto di 451 frammenti sonori. Buonanotte, fate i bravi e domenica prossima forse con questa astronave Krauta. Sì, una buona notte da Max Machi.